chi c'è su 10? Non ti tiro fuori, sento solo, vedo solo il segnale, ma la radio non la sento. Tiago 6, radio incomprensibile. Attenzione, canale 10, c'è nessuno in ascolto. Sei Gennaro. Anzi, Gennaro da questa parte, Carlo, QTH Sassari. Io sono Sassari. Sento una modulazione sul campo però. Sei in FM? Io sono in AM. E allora ti sento molto, molto contratta come voce. C'è questo baracchino, l'effetto, c'è troppa vibrazione, me l'hanno detto. Usando un microfono preamplificato? No, di palma. Perché non è chiara la modulazione del segnale, è qua a fondo scala, però la radio non è complessa, capito? No, non lo so. Tu sei arrivato al 9 più 20. Quasi incomprensibile è quello che dici. Non lo so perché. Parlare un po' più distante dal microfono. Così va bene? No, così proprio bassa la voce. Ho capito, così va bene, ma proprio lontana. Non va bene questo baracchino in AM. Prova ad andare in FM. FM è una bomba, va. FM è un radio, sicuramente. No, FM qua ti sento bene. Quel baracchino. Capito. Sì, proprio là facciamo fatica a sentire. Il segnale era qua a fondo scala. Però la radio era quasi incomprensibile, capito? Adesso va meglio in FM. Si può dire meglio, benissimo. Sono stato più pronti. Zona Luna e Sole Alta, più o meno, prossimità del bullying. Non abbiamo risposto. Sono in 9 più 20 qua. Questo è l'istinto. Capito. Ma nei punti vedo tutto dal terrazzo dove ho l'antenna, capito? Tutta quella zona là la vedo bene. Infatti arrivi forte la zona alta, quella zona lì di via degli astronauti, una bella zona lì. Io sono tra via Luna e Sole, via Dau, via Livia, capito? È una gran bella zona quella. Sì, zona alta, poi dove abito io praticamente non ho palazzi vicino, sono molto distanti, quindi diciamo l'antenna non ha nessun ostacolo, capito, e riesce a irradiare bene. Invece la mia no, c'è un sacco di... sono in basso. Vabbè. Guarda, io sto uscendo con 6 watt adesso, con 6 watt, diciamo che dovrei arrivare bene da te. Sì, sei 9 più 20 è il tirchio smetter di questa radio. Io sto uscendo con 50 watt. Si sente, cioè il segnale a bomba a palla qua a fondo scala, quindi 9 più 50 come segnale. Adesso la radio è ottima. Che baracchino hai? Allora, questo è un Albrecht AE 5890. È da AM, FM, SSB, è un baracchino omologato. No, il mio non è omologato, è un ICOM IC7004. Ho capito. Io sto usando un'antenna Smartec, la J-Pol, che l'ho piazzata da poco. Prima avevo un dipolo, andavo comunque bene, però adesso un po' migliorato come segnale. E lì vanno bene le Mantova 1 oppure... le Game Master, insomma, antenne diverse. Questa J-Pol funziona bene perché è la tua zona alta, se no se la metto qua non serve. Questa diciamo che è anche abbastanza alta, come antenna, sono 8 metri di antenna e diciamo riesco ad arrivare tranquillamente al Alghero, Porto Torres, Sorso, Ozieri, arrivo Muros, tutta la zona di Cargeca e Codrongianos, quella zona lì. Poi oltre non, diciamo, l'ho installata da poco, quindi non ho avuto modo di vedere se riesco ad arrivare oltre. Forse perché non ci sono neanche CB, non lo so. Quando facevo le prove io tempo addietro, da qua arrivava a tempio senza problemi, Tempio, Castelsardo, anche adesso ci arrivo, però ad Alghero sono coperto perché c'ho Monteoro a fianco in quella direzione, invece tu sei libero e sei coperto alle spalle perché tu sei in alto, però più alto di te c'è Monte Bianchino, Osilo, io sono lontano, salto un po' meglio l'ostacolo. Queste sono prove fatte dagli anni 70. Ho capito, sì sì. E niente, io non lo so, in passato stavo usando prima di questa un'antenna Sirio di Polo che poteva essere messa sia in verticale che in orizzontale. Quando ce l'avevo in orizzontale riuscivo a fare con la propagazione ovviamente d'estate di X sino all'Indonesia, Stati Uniti, insomma ho fatto diversi collegamenti a lunga distanza, uscendo solo con pochi watt. Lo so Carlo, ma è la tua zona, Poi l'influenza della polarizzazione orizzontale e verticale dipende sempre da chi ti riceve. Se uno va in orizzontale, bene, se non ci sono 30 dB di attenuazione per il cambio di polarizzazione, in genere è così. Io sto andando con la verticale qua, ma posso andare anche con quella in orizzontale, solo che aspetta, no, ce l'ho nell'altra radio dove faccio collegamenti con la direttiva, ma in 27 già va bene questo. In 27 con questa che hai va benissimo, ho capito. In FM è perfetta. Prima in AM chissà perché ti fa quel problemino lì, forse non so se il microfono oppure il tipo di radio che magari in AM forse con troppi watt magari è troppo compressa. No, non va bene in AM. In AM esce male questa radio, è perfetta in FM, questo è un 7004, fa tutte le HF, fa i 50 mega e le VHF. Sì, quella è tipo radio amatoriale, ovviamente io quelle radio non le posso usare. Lo so, no, io sì, però baracchini ne ho diversi, ma adesso sto utilizzando questa, stiamo facendo delle prove. C'è un mio amico sul tetto, adesso sta sistemando l'antenna e poi andrò dalle altre parti a fare delle altre prove. Spalviero non c'è oggi, è sempre qua. Spalviero, ci sei? Entrano un po' più tardi, capito? Oggi magari è sabato, la gente, visto la bella giornata, magari si è dedicata ad altro. Ma ecco. Sì, avanti. Ecco. Ciao Walter, buonasera. Buonasera anche a Carlo. Franco da Sorsa, avanti a te Walter. Ciao Fra, arrivi benissimo. Anche tu sei 9.15, Carlo è 9.20. Come ti sto arrivando lì? Sei 9.40 al mio Smith. Carlo anche 9.20, va benissimo. Avanti Carlo. Buonasera Franco, forse c'è qualcuno sotto in AM, io sento tutto vibrare perché essendo in FM qua forse qualcuno dietro che ci sente cerca di entrare Franco. Probabilmente in AM, se ci trova, yeah, che ce l'hai l'FM già ci trova. E allora Walter, cosa stai mettendo a posto l'antenna? C'è Fabrizio Salvatore. Mi stanno dando la mano, sono sceso dal tetto, c'è un freddo fuori, tanto non ci faccio niente, adesso dobbiamo cablare altri cavi e poi faremo delle prove, però in VHF e in U, tutto qua. Ecco, va bene, va bene, mettere a posto le antenne. Sì, comunque arrivi bene anche tu. Poco fa ho sentito, probabilmente era Radio Recai che non va in AM, è probabilmente quella lì, perché è tutta diversa. Però già in FM, dall'FM in su quella lì è una bomba. Questa sì. Ma vabbè, immagino ne ho altre. Adesso che ho questa attaccata con questa antenna. Poi quando è il caso ne ho baracchini valvolari. Comstat e altri, Midland, Tokai, Lafayette, già lo sai, non è un problema. Arriva forte anche da te Carlo comunque, io sono più favorevole per la tua zona, comunque arrivo un po' più forte. Però Carlo per Alghero deve essere un treno, Avanti Carlo. Alghero ci arrivo 9+20, 9+30, perché ho parlato con qualcuno di Alghero anche la settimana scorsa mi hanno detto che arrivavo molto bene con questa antenna. Praticamente ho parlato con Mirko e un certo Carlo. Carlo, non so se è mio amico radioamatore, quant'è alta l'antenna in se stessa, l'antenna fisicamente? Buonasera. L'antenna è 8 metri su un palo, diciamo che dal tetto va su 2,70 m. Anche la mia è alta 8 metri, l'ho presa da Fusaro. C'ha un sacco di radiali, perché mi si è rotta la mantova 1, se no avrei messo quella, mi sembra più affidabile. Claudio, sei tu, buonasera. Sì, buonasera, ma c'è un problema, la tua è 5 ottavi, quella che ho io e Carlo è 7 ottavi però. Non lo so, la mia è alta 8 metri qualcosa, la tua quant'è alta? 8 metri e 50 sono alte queste antenne, sono J-Pol. Sono due antenne accoppiate, una da 8 metri e 50 e l'altra da 2,75 a fianco. Capito? Ed è 7 ottavi però, non è 5 ottavi, è 7 ottavi. Buonasera anche a Franco, non so se sto uscendo, se sto andando bene, sto usando il 140. Perfetto, sì, 9,10, come Franco. 9,10, 9,15. Carlo è 9,20, Carlo arriva fortissimo. Beh, Carlo è più avanti di me, è più a vista per te, quindi non ci sono problemi. Avanti Franco, buonasera. Cappa, ciao Claudio, ben ascoltato. Sì, anche tu arrivi bene, 9,5. È una bella radio potente. Avanti Carlo. Comunque cerco bene la colpa di Claudio che me l'ha data lui l'antenna. Allora ti devo dire una cosa, che ho mandato un paio di messaggi ieri. La Smart Tech, io non ne ho venduto solo una, a me mi hanno dato il compito di praticamente far conoscere questa antenna. Grazie a Dio ne ho fatto comprare una trentina. Una trentina, a parte la mia e la tua, poi vabbè, ne ho dato un po' a Cagliari, un po' a Oristano, un po' a Nuoro, poi a, non mi ricordo, qualche cliente insomma l'ha chiamato, me ne occupavo io. Comunque, la Smart Tech, caro Carlo, proprio ieri sono andato a ritirare l'SDA, mi ha mandato la Smart Tech casa madre, mi ha regalato, mandato, un 55 pollici in 4K Smartech, marca Smartech, Smartech, se vuoi ti mando la foto, che è una cosa eccezionale veramente, un 55 pollici Ultra HD 4K, televisore eccezionale, ultra piatto, c'ha di tutto, un computer di quelli molto molto molto meglio di quello che avevo io, molto meglio quello che avevo, anche perché il mio era un 48, questo è un 55, ma è una cosa allucinante in 4K, il mio non era in 4K, me l'ha mandato la Smartech con un bigliettino dicendomi appunto congratulazioni per la vendita delle antenne, e addirittura mi hanno offerto se voglio collaborare con loro come venditore per il nord Sardegna. Gli ho detto di no, perché ho tempo da perdere, non ne ho e non ho voglia di fare più niente. Quindi se vuoi ti mando la foto, ma un bellissimo televisore. Scusate un attimo, c'ho a Fabrizio qui che mi sta aiutando con un tiro muscolo, mi hanno chiamato, sono in ascolto però intervengo quando posso. A te Carlo. Va bene, già siamo qua a Valte. Coca-Cola. Ciao Valte, ci sentiamo magari più tardi se coincide, hai capito Carlo? Ma un bellissimo televisore, con appunto le congratulazioni per la collaborazione effettuata per quanto riguarda il nord Sardegna, che poi ho fatto nord, sud e centro Sardegna. Ho capito, beh, se 4K con il sistema nuovo c'ha tutte le applicazioni native, ci avrà Netflix, Prime Video, tutta quella roba là, più altre applicazioni, perché praticamente sono come computer ormai le TV. Anche quello che ho io è un Samsung, lo stesso 55 pollici, ed è anche 4K, perché io le partite me le vedo in 4K su Sky, quelle che danno su Sky Sport, qualcuna di Serie A stanno dando ogni tanto, e quindi me le vedo lì. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. 4K, allora, vedi, io sto guardando la partita della Juventus femminile, allora di pranzo, mamma, qua spettacolare, veramente molto molto bello. Infatti ho mandato un email di ringraziamento. E niente, la tua figlia, ma perché erano con l'app? No, no, Giovanni, va più nuda io. Assolutamente, assolutamente. Ho venduto 34 esattamente di antenne uguale alla nostra, Carlo. 34. 34. Praticamente in Sardegna l'ho fatta conoscere io. Va bene, va bene. Sì, un Android questo, Android Super HD, c'è scritto 4K, tutto c'è, Google, Netflix, Play, WinPlay, di tutto un computer, l'ho dovuto sintonizzare come il computer, c'è la stessa icona del computer e di un telefonino praticamente, di un telefono, c'è il telecomando con il telefonino Android a scorrere. Veramente una cosa eccezionale, chissà quanto costa quella TV. E avanti Franco. Sì, l'ho vista com'è fatta, io ho la 32 pollici di quella, che ho tutto il programma come il telefono, cioè il computer, c'ha gli stessi programmi in pratica, a parte che non è 4K la mia, però che è piccolina, però è bellissima perché è facilissima a usare e tutto. Questa è marca Smartech, ti faccio la foto, te la mando, della Smartech, evidentemente fanno anche TV, non lo so, comunque molto molto bella, super piatta, proprio bellissimo. Ho dovuto rimodernare un po' l'arredamento perché dove era il 48 pollici non ci stava, quindi ho dovuto scambiare le basi eccetera, ma veramente molto molto bella. Ok, avanti Carlo. Sì, ho capito, marchiato Smartech. Comunque, seguendo il tuo consiglio, là, ho fatto anche io praticamente un collegamento perché ti avevo detto che avevo problemi con la caldaietta. Me la cambiano nuova tramite centro assistenza, però devo aspettare 10 giorni. Quindi per non stare senza acqua mi sono preso uno scaldabagnetto di quelli piccoli da 30 litri e l'ho collegato a fianco, l'ho agganciato al muro con i tasselli, capito? L'ho collegato in parallelo all'altro e ho messo dei rubinetti, no? Quindi escludo uno e attivo l'altro. In caso di emergenza così ce l'ho sempre a portata di mano. Sì, beh, il mio impianto è fatto così, ma l'ha fatto l'idraulico, insomma, chi ha fatto l'impianto. Mi ha detto, la vuoi una caldaia supplementare, un salvatoio supplementare nel caso, sì, mettilo, l'ha messo a fianco a 50 litri, ma ancora non ne ho usufruito perché grazie a Dio la caldaia sta andando bene, però metto nel caso, se dovesse andare in blocco la caldaia, tu non fai altro che chiudere questa saracinesca e aprire l'altra, e l'acqua calda ce l'hai sempre. Ho detto, va bene, hanno fatto così. Molto bene, molto bene. Sì, sì, sì, Franco. Sì, questo è veramente un bellissimo TV. Sono rimasto contento, ma poi mi è arrivato un messaggio dall'SDA che appunto mi diceva che c'era un pacco un coso per me in giacenza, se potevo andare a ritirarlo, perché era previsto il fermo deposito, capì? Perché era un bel grande, sono dovuto abbassare tutti i sedili della macchina, metterlo dentro il traverso, fermo deposito, ho detto cazzo, una Giulina Donuda, fermo deposito, vabbè, vado a vedere che cos'è. Quando sono andato, ho detto, lei avanti Claudio, sì, conosce questa azienda? Ho detto sì, abbastanza, allora questo l'hanno mandato per lei. Vabbè, aiuti tu, grazie, Giovetticchia. E poi ho mandato un'email al capo aria, che tra l'altro è anche sardo della zona della provincia di Cagliari, e mi ha detto mi ha proposto appunto questa cosa, Carlo, ho detto no, lascia perdere, non mi voglio godere la pensione, non voglio avere problemi, devo stare in giro, ho detto, no, puoi fare anche tutto, no, assolutamente, assolutamente. Comunque l'ho fatta prendere anche a Fusaro la concessionaria, se quindi avete necessità. Chiaramente non la pagate al prezzo che la pagate dove la prendo io, la pagate un po' di più, comunque Fusaro ha preso la concessionaria appunto per quanto riguarda Sassari, non la provincia di Sassari, Sassari, per quanto riguarda Sassari si possono ordinare da lui questi tipi di antenne, questo tipo di antenna. Ho capito, Cla, ho capito. Bene, bene. E niente, io stasera ho il turno di notte, entro alle 21, esco alle 5 del mattino, quindi parto intorno alle 8, 8 e un quarto, e poi ho un paio di giorni liberi e quindi mi dedicherò a fare qualche altro lavoretto in casa, mi devo sistemare i tubi perché per adesso li ho messi volanti e quando ho un po' più di calma me li sistemo bene nel muro perché li ho fatti tubi di rame, usato, però li devo fissare, capite, in maniera tale che rimangano ordinati in parallelo con gli altri e non è un obbrobrio. Va bene, va bene. Ok, avanti Franco, io mi allontano 5 minuti che mi devo fare la barba, 10 minuti, poi rientro. Avanti Franco. Ehi, K-Class, ci sentiamo dopo al limite, anche io mi allontano un po', anche io mi devo allontanare perché stavo facendo cosa, sono entrato lì, ho sentito a loro e allora sono entrato a salutarli. Va bene, ci sentiamo dopo magari. Avanti Carlo. No, nessun problema, tanto anch'io sono in ascolto, me ne ripasso in AM però perché magari qualcun altro chiama e abituati all'AM, capito, in FM poi ci sentiamo male. Ciao Claudio, se sei in ascolto e poi rientrerai già mi trovate qua. Ok Franco, ciao Walter se sei ancora in ascolto, alle prossime. Ehi K, dai. Io mi intanto sono qua, sono anche in ascolto perché mi sto battagliando da due giorni con un microfono e gli sto cambiando tutti i fili nuovi, però già piano piano me lo sto facendo, tanto per non sbagliare, tolto uno e messo l'altro. Piano piano senza sbagliare, anch'io me ne devo sistemare uno quando ho più tempo. Attento Radio Oscar Lima, se ascolti. Ok Radio Oscar Lima, here Sassari, Sardinia Nord. Non parlano l'italiano, ca. Sardinia, can you copy 1-9 division? Okay, my friend, where are you now, you? I'm about 120 kilometers from the capital city of Amsterdam. Can you help? Non si capisce bene questo, a volte va, viene, bu. Oh, 9-10 mi arriva quello lì. Che a me arrivava forte, però adesso lo sento più debole. So che io non riesco a capirli perché non lo parlo io e non li capisco, capito? Adesso è coperto dal QRM, capito? Ho abbassato lo squelch ma non lo sento più. Capo, va bene, dai. Pure fra, io adesso provo a vedere se lo pesco, vediamo un po'. Ok, here Sassari City, North Sardinia, my friend. My name is Carlo, in Sassari City, North Sardinia. Chi c'è? Si muove stazionaria. quan sedas, notimeras, venire runines, andomo mia. Sì, buonasera a te. E Antonio. Poi, e allora, come va? Tanto mi ero negli altri canali, poco fa stavo parlando con la Germania, gli arrivavo Santiago 9, Radio 5. Cappa, pure io li sento già, in FM sono. FM sono i tedeschi di solito. Sì, sì, a dir la verità li ho beccati in banda laterali, poi si sentiva il Belgio molto bene, uno che parlava italiano oltretutto, stava parlando prima con Macerata, poi mi sono messo in mezzo e coprivo quello di Macerata, evidentemente la propagazione era tutta da questa parte. A che ora è successo? Perché adesso un po'... mi sembra un po' spenta, capito come quello. Sarà un quarto d'ora fa, sino a un quarto d'ora fa si sentiva la propagazione bella forte, capito? Se entrano, accendo a Gigi, verrai come entro in prepotenza. Di solito io quando trasmetto da quelle parti sembra fondo scala sono. Sì, se attacchi la Maradam non ce n'è, perché tu già esci forte anche con poca roba, Antonio. Stamattina ero con Natalino, ci siamo presi un caffè insieme, gli ho portato il cavo e degli spinotti, e siamo stati un po' insieme. Allora torno alle 10, così dalle 10 alle 11 qualcosa. Avete fatto bene, dai. L'ho vista comunque la tua antenna, Salai, bella retta, E a giuvizia, ya. Ma c'è qualcuno che vuole entrare? Non lo so, no. Dai, mi dava l'impressione che si sta muovendo l'ago dal coso, invece no. Adesso non si sente più. Avanti chi vuole entrare? Io sono con pochissima potenza, sono. Com'è? Parlo. Mi anto. Ho detto sono con pochissima potenza, com'è buono il segnale. Fatti un'aria zero praticamente. Guarda, qua mi arrivi fondo scala, la radio è ottima, quindi che qua arrivi, sia se tu esci con poco o con molta potenza, qua mi arrivi molto bene, capito? Oggi ho controllato un po' l'antenna, vabbè io non è che c'ho molto d'accordo, io da lucernaio mi accorgo come l'antenna, è tutto a posto. Sembrerebbe di sì, Anto, già stai uscendo bene. E io lo stesso, stamattina ero un po' in girella perché mi si era rotta la caldaietta e ce l'avevo in garanzia, me la devono portare nuova, ma ci impiegano 10 giorni perché la devono ordinare e quindi nel frattempo stamattina sono uscito e mi ho preso uno di quegli scaldabagni piccolini, l'ho collegato in parallelo, giusto per avere un po' d'acqua calda, capito, se ti devi lavare velocemente. Facendo tutte queste cosettine, stanotte c'ho il turno di lavoro e parto alle 8 perché alle 9 devo essere all'aeroporto. Magari li conosciamo, però non so che sei tu, cavolo. C'è ancora qualche po' di propagazione, ogni tanto si sente qualche segnale forte scompare però poi. Sì, è così. Poco fa su un canale sentivo un casino, sentivo. Noi eravamo, praticamente ho sentito uno che chiamava sul 10, però lo sentivo male, perché ed era Walter, la radio in AM non gli stava uscendo bene, poi siamo passati in FM, invece là era perfetta, capito? Poi è entrato anche Franco, Claudio, però avevano da fare, Franco ha detto che c'aveva un microfono che stava mettendo a posto, Claudio doveva fare delle altre cose, Walter lo stesso, c'aveva un amico che era sul tetto, non so come cosa stavano facendo con le antenne. Loro sono radioamatori e quindi stanno sempre a sperimentare, capito? E niente, io in ascolto qua poi stavo girando nei canali, capito? Ho fatto qualche DX e poi sono rientrato, ho visto sul 10 che c'era la portante, ho detto vediamo chi è. La portante c'era. Ho visto una portante, capito, qualcuno che chiamava e quindi niente, me ne sono rimasto qua sul 10. Tu vai a quattro. Tu vedi. Ma adesso vediamo cosa fare. Se faccio qualche miglioria, voglio. O faccio una cosa, questa per risparmio soldi, se no mica non compro quella come ce l'hai tu. Vedo un po' perché questa non ha bisogno di essere in alto per radiare bene le antenne. Non è che abbia tanta differenza da una all'altra, la antenna quando è sul tetto esce bene. Secondo me quella che hai già va bene come antenna, tutto al più puoi provare a alzarla tu, senza, e poi vedi se va bene quella, perché cambiarla, capito? Con questa esci forte tu. A me va benissimo qua. Certo, ho qualche zona d'ombra perché non è che sia in altissimo. Sono convinto che sei entrato nel palazzo, cioè sei stato molto più in alto di come sono adesso. Io sono convintissimo che è riuscito un bel forte, non c'è neanche bisogno di fare chissà cosa. No, no, è praticamente la situazione, io come esco arrivo a tutti forte, io arrivo 9:20 ad Alghero, a Porto Torres lo stesso, Santiago 9, capito? E non è che sto uscendo con tanti watt, capito? Io sto uscendo con i watt della radio e basta, non ho niente. Però è la posizione, capito? Già l'hai visto dove abito, io palazzi vicino non ne ho, è tutto aperto, quindi già esco bene, capito? Perché è in alto l'antenna. Ci sarà un motivo nella tua zona perché hanno messo quel ripetitore. Qua è tutto pieno, praticamente all'inizio della via dove abito io c'è un condominio, quello proprio all'inizio di via Dauno, dove all'interno c'è la piscina eccetera, sopra sul tetto hanno messo tutti i ripetitori della telefonia mobile, no? Perché gli pagano l'affitto e gli danno tipo 25.000 euro l'anno, capito? E loro si pagano tutte le spese condominiali con quei soldi, hai capito? Allora, la piscina va. La giubita, tutta a coscia all'aria. L'estate lì si mettono tutti così, a coscia all'aria. E poi salendo c'è la palazzina della Telecom, lo stesso, tutto pieno di ripetitori. Qua siamo invasi, circondati dalle antenne, dai ripetitori, capito? Sì, già l'ho visto, già non lo so. Già giubito tutti i canti sti cose, ma un tetto è pagato, già un grido, mettiti come gli aereo all'anno, già un grido se le puoi permettere sti cose. Via. Vediamo se qualcuno vuole entrare, avanti sul canale 10. A molti ci picchia a molti dà fastidio quei così lì, a molti quando si tratta che ne gabbano di mattone non dà più fastidio. No, poi ormai la telefonia si sta spostando tutta quanta sulle nuove frequenze, capito? Quelle che prima erano in uso alla TV, adesso passano alla telefonia mobile, capito? E le frequenze televisive sono tutte in UHF adesso, col digitale terrestre. Non so già. Ma molti lottano per togliere questi ripetitori, dicono che fanno male. Magari un po' di nappero già, non fanno più male. No? Hai detto bene, già pagano bene quelli lì che li mettono nei palazzi alti. In questa zona ci sono diverse palazzine così e tutti li hanno messi, ho visto, perché praticamente qua è una zona buona perché siamo in alto, capito? Da qua vedi tutto aperto, io quando salgo sul tetto vedo tutto, tutto Osilo, tutta quella zona lì alta, ma si vede anche quando c'è il cielo limpido limpido verso Nulvi, quella zona lì si vede qualcosa, capito? È tutto aperto, si vede tutto l'Asinara, il golfo di Porto Torres, qua a vista d'occhio, e quando sali d'estate con i binocoli vedi anche Porto Torres, la città da qua. Già lo so, come già l'ho visto io in alto, come adesso però lunghi ripetitori in un capo, no? A me non è che mi sia tanto simpatici. Praticamente il ripetitore, la funzione sua è quello di prendere i segnali deboli e di trasmetterli più amplificati, capito? Però li spara in alto, su nell'etere, quindi non è che irradia verso le case o verso strada, capito? Quindi non è che facciano niente, capito? Ci sono sempre stati e non è mai successo niente, poi la gente ne inventa di tutti i rigurori, però come hai detto tu, quando vedono i soldi, poi già allora li accettano volentieri. Non lo so, comunque se hai quelli, se puoi piazzare l'antenna della parecchia sul tetto. Penso, se non causa interferenze a loro, penso di no, cioè penso che non ci siano problemi a metterla, anche se ci sono i ripetitori vicini, perché comunque sono frequenze completamente diverse, capito, dalla 27. Cappa, no? Forse disturbano, addirittura le sparano in aria, sparano quelli lì. C'è qualcuno che vuole entrare, però lo sento basso basso. Avanti chi vuole entrare sul 10. Prima si sentiva, adesso non lo sento più. Bene, Meda. Anto, io devo fare alcune cosette perché mi devo preparare un po' di roba per cena, perché entro le 8 devo cenare, perché poi esco e come esco già accendo in macchina, magari ci sentiamo anche più tardi. Rimango in ascolto comunque. E nel caso ci sentiamo più tardi oppure alle prossimine, grazie del QSO e ci sentiamo, dai Antonio. Allora in questi giorni ci vediamo un caffè con Natalino con te. Via, non ti preoccupare, già la organizziamo anche con te quando sei libero tu, Anto. Magari mi conosci pure me, perché ci ho conosciuto a Sassari. Beh, sicuramente sì, già è Natalino, io già me lo ricordo da molto tempo fa, io andavo nella pasticceria che avevano i suoi parenti quando ero ragazzino, capito? Che praticamente lui è parente di mia nonna. Cioè, Rubabbo era, e poi ci lavorava il fratello. Esatto, praticamente il padre di Natalino, Melis, era cugino in primo grado con mia nonna. Era di loro, in poche parole. Lui le trasportava nei bar, tutti i rompi, capito? Sì, già lo so, e anche buone erano quelle paste. Dai, Anto, ci sentiamo più tardi al limite, che inizio a organizzarmi io. Ok, bye. Dopo, Antonio, ci sentiamo, ciao. da questa parte, barra mobile, Bretagnetta. Cappa, chi sei che non ho capito? Antonio, sì. Io Antonio, ma chi sei, Carlo? Ehi, Anto, andando al lavoro, sono davanti a Conforama. Cappa, dai. Forte e chiaro. Ehi, Ami, andando a lavorare. Finito di cenare 10 minuti fa, è veloce poi in macchina perché alle 9 devo prendere servizio. Cappa, bene mi senti tu lì. Qua stai andando forte, fortissimo, rimbomba tutta la radio qua, Anto. Ehi, tu stai diminuendo un po' di segnale, ma già va bene, dai. E ovviamente c'ho l'antennino piccolo e quindi non so fino a quando mi sentirai. Non è entrato nessuno stasera in radio al 10. Oh, ero bucato, ero dormito un poco, non ho sentito nessuno. Adesso mi sto risvegliando un po' e dopo si esce. Ho fatto un pisolino a Chiro Stracco. Stanchezza, Cosa? Io adesso do il cambio al collega come arrivo alle 9:10, mi barrico dentro, sono giù nella casetta in Canada, in fondo al Banco Carraio, mi metto il condizionatore, mi guardo qualcosa col telefonino, qualche film. Già fai bene. E se non ti pigli la paranoia in Kiwi? Fino a mezzanotte. Fai bene. Adesso un po' ti sto perdendo, dove sei arrivato? Dai, non so se tu mi senti ancora. Carlo, dai, non ti sento più. No, se mi stai sentendo ci sentiamo alla prossima, dai. Ti ho perso, cavolo, un pochettino. Ok? Dai. Io adesso vado un po' a prepararmi, vado e... perché... devo fare delle cose. Dai, ce la risentiamo qua. Ok, ciao.